Sono Giulio Pellizzari, siamo alla partenza del Giro d'Italia, la nona tappa. No, Decima. decima. Allora, sono Giulio Pellizzari e siamo alla partenza della decima tappa. Siamo finiti, i ragazzi di Gironimo. Gironimo mi rompono il cazzo tutti i giorni, però non si molla. Vingt-sept secondes. Allez, c'est pour toi, petit, hein, c'est pour toi. Hein. Allez. Allez, allez, Valentin. Allez, allez, allez. Elle est pour toi. Super, Valentin. Bravo, petit. Super. Amiche e amici del ciclismo e del Giro d'Italia, ma anche sorelle e fratelli del ciclismo e del Giro d'Italia, parenti di qualsiasi grado, cugini, biscugini, suocere, consuocere, generi, nuore e tutto quello che volete nell'ampio ramo delle parentele di cui l'Italia è maestra, benvenuti a una nuova puntata di Gironimo, la puntata numero, perché non mi ricordo più né a che tappa siamo, né dove siamo e men che meno chi siamo. Davanti a me c'è un ragazzo giovane, tutto sbarbato, non so chi sia, presentati. Che bello farsi la barba nel giorno di riposo. Michele, Florindo, Giulio, Marcantonio, Pelacci. Alla mia destra c'è, credo, l'ho visto sui social, lei è il signore Un di nome, signore di nome Piccione, sono signore sempre io, di sono qua. nome Ciao a tutti. Piccione, mentre sulla fascia sinistra fatele arrivare questo microfono e fatele arrivare il vostro saluto, è con noi Marta Bacigalupo. Ancora incredula di essere in Molise, quindi mi devo arrendere, c'è. C'è il Molise, è un grande classico del Giro d'Italia, è un grande classico di questo podcast. Sono invece le introduzioni che i corridori fanno per noi e oggi avete sentito Giulio Pellizzari senza peli sulla lingua. Senza nessun pelo sulla lingua, Bravo. siamo a Campobasso. Siamo a Campobasso, targa CB. Sì. Vuoi fare un acrostico? Già che ci Così sei, al ce l'hai pronto? volo. No, No, non non ce ce l'hai l'ho pronto, pronto, vabbè, poi magari ci adesso. torneremo su un sacco di altri temi perché questo podcast, che è il podcast di Alvento, powered by, come dicono i giovani, e qui davanti il dodicenne Florindo annuisce, powered by Shimano, è un podcast dedicato al Giro d'Italia, all'amore che corrispondiamo con i nostri ascoltatori che ci riempiono di cornucopie. Ieri il nostro amico Peppe è arrivato con un babà da 1 chilo che non abbiamo ancora assaggiato, speriamo si sia conservato, lo mangeremo domani a colazione, ma noi torniamo e andiamo di corsa sulla tappa di oggi, anzi sui luoghi della tappa di oggi, perché questa tappa si concludeva a Cusano Mutri, Bocca della Selva, e quindi il resto di questa puntata sarà occupato dall'acrostico. Tutto il resto della puntata, Non so, no, sono 122 lettere. vi devo deludere perché per motivi di tempo e anche di mia sopravvivenza intellettuale e psichica non userò le parole contenute tra parentesi nelle località del giro. Ho definito, stabilito questa regola, quindi solo le località senza quelle contenute tra le parentesi. Dunque, Cusano Mutri e basta. E questo qui l'acrostico di oggi. Cogliamo uno sloveno avanzare, nerboruto, ostinato, ma un transalpino rimonta, imponendosi. Molto, molto interessante. Chissà cosa avresti cucinato se anche Bocca della Selva era parte, o forse potevi mettere solo Bocca della Selva, non lo so. No, perché la dicitura ufficiale dell'arrivo di oggi è Cusano Mutri, parentesi, Bocca della Selva, e quindi ho scelto solo la parte fuori dalle parentesi. Questa è la regola. Ma ecco, oggi avete sentito anche in uscita poi dalla sigla un suono, dei suoni, delle urla, perché oggi noi... Degli incoraggiamenti, degli degli incoraggiamenti. allè, perché questo è. Spesso questo podcast ha avuto in modo incomprensibile delle influenze sulle corse, sul Giro d'Italia, ma forse mai come oggi, Record, devo dire. record. Questo... Oggi record, sì, perché quest'oggi ci siamo divisi, come capita alcune volte in questo podcast. Io personalmente sono andato per la prima volta nella mia vita a bordo di un'ammiraglia di una squadra. E l'ammiraglia di questa squadra è stata la prima a varcare il traguardo in quanto ammiraglia del vincitore Ha solitario di vinto proprio tappa. l'ammiraglia, Ha prima vinto ancora del l'ammiraglia. corridore. E ci torneremo su questa cosa quando parleremo della tappa. Vi faremo ascoltare qualcosa di più del racconto di questa giornata. Quello che possiamo dire è che io sono stato in ammiraglia così, nella mia carriera, in ammiraglia io ho sempre vinto. 100% di 100% di realizzazione, successi. si Questa dice. cosa Michele Pelacci la chiamerebbe flessare. flexare forse. Ma comunque, visto che è stato chiamato in causa, CB Campobasso, cominciamo bene. E non si può cominciare meglio se non con le sillabe d'amore di Michele Pelacci, che ci aiuta a fare ordine col riassunto della tappa di oggi, numero 10 del Giro. Un chilometro dopo la partenza da Pompei, e si avvantaggia una coppia con ricordi speciali a Napoli, Clark e De Marchi, ai quali più avanti si aggiungono molti corridori, tra cui Caruso, Pozzovivo, Trattenic, Juanpe Lopez, i fratelli Parepentre, Chaves, Alaphilippe, Foss, Conci, l'elenco non è completo, prometto, Velasco, Frigo, Bardet e Zana. Questi ultimi due, Bardet e Zana, sono anche quelli messi meglio in classifica generale, circa 7 minuti di ritardo per loro al via. Ai meno 35, nei pressi di Guardia San Framondi, Trattenic saluta i compagni di fuga e attacca da solo. Il suo vantaggio aumenta sensibilmente e solo in 4 hanno le forze per seguirlo: Frigo, Parepentre, Valentino, Bagioli e Bardet. I due francesi riescono a staccare i due italiani e si involano all'inseguimento di Trattenic. In gruppo la UAE lascia fare. Fa quindi ritmo la Bahrain sulla salita finale, anche grazie a Keplinger, Zambanini e un Caruso che nel frattempo si è fatto riprendere. Staccato anche Bardet, superato Trattenic, è proprio Valentin Parepentre a vincere sul traguardo di Bocca della Selva. In gruppo intanto Tiberi tiene alta l'andatura, ma Pogacar è attentissimo sulla sua ruota. Nel finale O'Connor lancia lo sprint e qualche uomo di classifica perde una manciata di secondi. Dunque, ordine d'arrivo: Valentin Parepentre su Romain Bardet, secondo a 29 secondi, terzo Jan Trattenic a 1.01, a seguire quarto Andrea Bagioli a 1.18 e l'altro fratello, l'altro Parepentre, il pennello grande, a 1 minuto e 25, quinto in un gruppetto che comprendeva anche Geschke, Zana e Domenico Pozzovivo, ottavo. Nono Nicola Conci a 1.41 e decimo Esteban Chaves a 1.56 per chiudere la top 10. Il gruppetto dei migliori è arrivato a 3 minuti e 14, l'ha regolato un altro uomo della Decathlon che oggi ha vinto qualsiasi volata sia stata disputata su questo pianeta, anche non e volate. E di chi sarà il merito? Ben O'Connor ha battuto, senza guadagnare secondi, Dani Martinez, Geraint Thomas, Tadej Pogacar e l'enfant du pays, Einer Rubio, che è arrivato 18esimo. Hanno perso 4 secondi dal gruppo O'Connor-Pogacar, Tiberi, Hirt, Storer, Fortunato e Bodin, mentre ha perso qualcosina in più, 13 secondi da Pogacar e 9 da Tiberi, l'altro, uno degli altri contendenti per il podio, vale a dire Kian Uijdebroeks, un po' meno brillante oggi. Classifica generale parzialmente immutata, almeno nelle prime 6 posizioni, c'è sempre Tadej Pogacar in maglia rosa con 2.40 su Dani Martinez e 2.58 su Geraint Thomas. Quarto è Ben O'Connor a 3.39, Kian Uijdebroeks è quinto a 4.15 e sesto è Antonio Tiberi a 4.27 da Pogacar. Settimo è Romain Bardet che guadagna 7 posizioni ed è distante 4.57 stasera da Pogacar. Ottavo Lorenzo Fortunato, nono Filippo Zana, altro corridore che ha scalato delle posizioni ben 4 stasera, e decimo Einer Rubio da Benevento a 5 minuti e 28 dalla maglia rosa. Ma addentriamoci meglio nei temi di oggi, come siamo soliti fare con Marta Bacigalupo, che estrae il suo tarocco nella giromanzia che a posteriori ci spiega o ci racconta, ci introduce un tema che ha caratterizzato la frazione di oggi. Vai Marta. Ah, ho sempre desiderato essere la regina dell'ovvio, quindi oggi grande giornata per il mio focus francese, comunque questo devo dirlo, gasamento totale, un sacco di francesi oggi. Ma a proposito, diciamo, la carta che estraiamo oggi è quella degli amanti. L'arcano degli amanti rappresenta, abbiamo appunto due figure e una terza un po' distaccata. Queste due figure sono chiaramente Valentin Parepentre e Romain Bardet, che proprio facendosi un cenno di intesa scappano insieme lasciando nella polvere Bagioli, mentre ben più avanti, già qua circa un minuto avanti, avevamo Trattnik. Però proprio questo terzetto e in particolare poi appunto la coppia Parepentre e Bardet è quella che ha proprio dato il via all'azione decisiva. Questa carta rappresenta, estratta dritta appunto, una situazione complessa che è la ricerca della felicità per entrambi gli amanti. In questo caso ovviamente più felice è stato Parepentre, che ha seguito l'istinto, quindi che si è affidato all'istinto. Ma questa carta ha anche un altro risvolto, quello di valutare le conseguenze delle azioni, e forse quella di Bardet, che è stato attento a non andare fuori giri. Al rovescio invece significa stallo, è una carta negativa, ci riporta quell'idea di rimandare il momento decisivo, questo attendismo che potrebbe rischiare di portare a un momento di stasi. Questo forse più per chi, ci dicevamo prima conversando, non attacca perché le gambe non ce le ha. Attendismo che c'è molto poco negli uomini che fuggono, per definizione i fuggitivi non sono attendisti, ed è molto bello che nelle fughe, in questa fuga di oggi, si siano inseriti anche uomini di classifica, non di altissima classifica, ma comunque corridori che lottano per la generale, che hanno preferito rischiare andando in fuga: Bardet, Pozzovivo, Zana. E qualche tempo fa non succedeva questo, si tendeva anche a difendere quelle posizioni conservando, essendo più conservatori. In questo ciclismo non è più così, è qualcosa di positivo, di spettacolare, anche perché soprattutto oggi la squadra della maglia rosa ha deciso che potesse andare la fuga, quindi c'è stata un via libera da parte della squadra della maglia rosa. Non felicissimo forse di questa cosa Pogacar, che ha detto: sì, l'abbiamo fatto perché bisogna far felici tutti e la torta va divisa anche un po' con gli altri. Non fosse stato per lui, forse non sarebbe andata così. Esatto, nessun membro della UAE è in fuga, una delle poche squadre a zero componenti della fuga. Le altre sono Arkea, Tudor e Intermarché. Alcune squadre avevano ben tre componenti, per esempio abbiamo visto Chris Hamilton tirare parecchio perché il suo capitano Romain Bardet era in fuga, e guadagnare, no? Sicuramente terreno anche in classifica generale non fa schifo a Bardet, non fa schifo neanche vincere la tappa. Filippo, il francese se l'è giocata fino all'ultimo. Sì, sì, poi era l'Enfant du Pays, per cui aveva senso che attaccasse. No, scusa, si partiva da Pompei, ci stava che fosse un Romain. Momento di gelo in questo podcast, ma riprendiamo. Vai Marta, torniamo alla fuga. Ho appena capito a che cosa servivano questi termosifoni sparati a 5. Fuga che comunque, avendola vista da una posizione privilegiata quest'anno, quest'oggi, questo non lo cancelliamo, ha fatto, insomma, ha richiesto molta battaglia per formarsi. Addirittura c'è stato un momento, al di là di quella prima azione a tre con De Marchi, Clark e, aiutatemi chi era il terzo, Quintenermans, se non sbaglio. Perché comunque la bromance tra Clark e De Marchi continua. Sì, non lo so se continua, questo lo chiederemo al nostro amico Dema. E c'è stato un momento di tale confusione, di mega scatti, non chiedetemi il punto esatto, che addirittura anche in auto, nelle ammiraglie, seguendo Radio Corsa, nessuno ci capiva niente, nemmeno Radio Corsa riusciva a dire chi era entrato, chi no. Partivano gruppi di 15-18 corridori, difficili da conteggiare e difficili chiaramente, cioè da conteggiare per chi sta seduto nell'auto che dà gli aggiornamenti, ma difficile da conteggiare anche per il gruppo, che quindi nel dubbio andava a riprendere perché non riusciva chiaramente a capire esattamente chi entrasse nella fuga. E mi ha fatto ridere un momento, mentre ero seduto in ammiraglia, in cui Cyril Dessel, il DS della Decathlon, ha detto anche: se la guerre dans les voitures, è stata una guerra non solo dei fuggitivi ma anche delle ammiraglie, perché chiaramente tutte cercavano di prendere posizione inseguendo la fuga. C'è stato un momento che si è andati quasi a sportellate tra ammiraglie seguendo le fughe. Guerra delle ammiraglie, seconda solo a che cosa? Alla gara dei bus. Bravo. Ovviamente questo è... ma ci siamo, adesso non abbiamo detto che oggi hanno annunciato che hanno tagliato lo Stelvio, ma la gara dei bus è lì, è pronta all'orizzonte. Sì, allora, salita molto bella, con molti rettilinei anche, in cui i corridori riuscivano a vedersi tutti tra loro, aumentando il valore e l'importanza del fattore psicologico in una tappa come quella di oggi. Valentin Parepentre ha avuto la meglio anche da questo punto di vista, era molto carico sul podio. Non so se avete visto questa scena in cui lui è andato ancora prima di essere annunciato allo spumante, voleva stappare subito lo spumante, lo speaker ha dovuto parlare in francese per fermarlo, dire: fermati un attimo che prima devo dirti che hai vinto la tappa. Ma lui lo sapeva evidentemente di aver vinto ed era pronto già a stappare. E, Michele, so che tu sei in qualche modo un esperto dei due fratelli Parepentre, li hai già incontrati in passato, dove? Al Tour of the Alps? Esatto. Hai parlato con loro, aiutaci a distinguerli, sebbene siano effettivamente diversi, uno più alto, uno più basso, ma ti lascio la parola su questo. Tra l'altro, parete, tu hai parlato di grande e piccolo pennello, ma la parete a quanto pare è una piccola slitta che usano le persone nelle Alpi dell'Alta Savoia per appunto muoversi meglio sulle nevi. Comunque, Warbasse, diciamo esperto come me dei fratelli parapentra, corre insieme. tuo collega Warbasse, esatto. Nella facoltà di parapentrismo. Esatto. mi diceva che in realtà i due, che spesso vengono accomunati, in Italia si dice che è impossibile distinguerli, eccetera, sono molto diversi. Warbasse dice ci sono 15-20 centimetri di differenza, secondo me sono molti di meno. Comunque, dice Warbasse che se prendi una foto di Aurélien, la restringi, ottieni Valentin. Questo fa ridere, ma Valentin ha molta personalità in quel piccolo corpo, dice lui, e, questa la dico in inglese, la capirete, Valentin doesn't take any shit from anybody. Quindi è una persona molto focosa, molto fumantino. Non fa trapianti fecali con i compagni di squadra. No, non è, non so, non che è, non è questa la traduzione. No. Però se vuoi... Sono 8 i centimetri, sì, di differenza secondo le statistiche ufficiali, però va bene, anche 15-20, possiamo arrotondare. Il mio amico Larry è così, esagera sempre. Poi ci vai a parlare con Larry, ti prendi questo impegno, volete... Larry Warbasse. Ma sai che ho anche una lista, così facciamo un piccolo momento data. Te lo stavo per chiedere, sì. Fratelli che vincono al Giro, perché ricordiamo che l'anno scorso aveva vinto Aurélien al Giro d'Italia, l'anno dopo suo fratello, è successo altre volte nella storia, immagino di sì. Sì, peraltro a Lago Laceno, suo fratello, per cui questa zona dell'Italia piace molto alla famiglia Parapentre. La lista dei fratelli, grazie a Matti Pio Riley su Twitter e a risposte ai suoi tweet. Allora, ecco la lista. Maggini, fratelli Maggini, Luciano e Sergio, fine anni 40. Raybrook, Guido e Wilfred, tra anni 60 e 70. I fratelli Casagrande, tra 90 e 2000. Izaguirre, Gorka, ah, e Ion. Ah, vero, recentemente anche. Esatto, diciamo epoca contemporanea. Poi non so perché questi li ho segnati qui, sono di ordine cronologico, tranne per questi, Plankert, Eddie e Willy. Addirittura un fratello ha vinto 20 anni dopo il primo. Bellissimo. Questo è interessante. Oggi a questi si sono aggiunti i fratelli Parapentre. Bene, siamo contenti. Era contentissimo Valentin, che era emozionato sulla linea d'arrivo. La sua prima vittoria da professionista. E sapeva, ha detto, di essere un corridore tagliato per le corse a tappe. E oggi, insomma, l'ha dimostrato. Ma a un certo punto sembrava che colui che fosse il candidato a vincere la tappa e quello messo meglio fosse un altro corridore, nessuno dei Parapentre, nemmeno Romain Bardet, nemmeno Andrea Bajoli, ma Jan Tratnik della Visma, che era davanti a tutti con più di un minuto a un certo punto di vantaggio sugli altri. Sembrava fatta, poi non è stato così, c'è stata questa azione dei francesi, ma ho parlato con Jan Tratnik dopo la linea del traguardo e gli ho chiesto per prima cosa perché ha attaccato proprio così presto, così da lontano, perché ha attaccato ben prima che cominciasse l'ultima salita. I showed them that yeah, I'm strong and maybe they would lose hope. But yeah, in the end it was really long climb and to be already before alone. I can be still satisfied with performance, but yeah, honestly they were stronger and I gave my maximum and I'm really happy. You are still smiling. That's a good sign, right, for the future of the Giro? I think better that I'm crying. No regrets today? No. Grazie mille, bravo. Thank you. E allora lui ha detto, volevo mostrare a loro, ai miei avversari, che ero forte, in modo che perdessero le speranze. Quindi quel suo attacco aveva anche un valore psicologico, come abbiamo detto prima. Però alla fine la salita si è dimostrata lunga da fare tutto solo, posso comunque essere soddisfatto della mia performance, onestamente loro erano più forti, io ho dato il massimo e sono felice. Io gli ho chiesto, stai sorridendo, è un buon segno per il prosieguo del tuo giro? E Tratnik ha risposto, sì, direi comunque meglio ridere che piangere, e ha di nuovo riso, e quindi per concludere gli ho chiesto, nessun rimpianto oggi? E lui, no. E basta, come è solito fare. L'altra volta gli avevo chiesto, stai bene? Sì, aveva detto, oggi nessun rimpianto, no. Sta diventando un po' il leitmotiv dei fuggitivi di questo Giro d'Italia, il nessun rimpianto. Su Tratnik va detto che, come sempre, il primo giorno di riposo del Giro d'Italia è anche il giorno dei ritiri, E quest'oggi non è partito Coy, per cui immagino che Tratnik ci dia anche un segno di una Jumbo, che poi è la Visma, ma io continuo a chiamarla Jumbo, anzi chiamiamola Rabobank e tagliamo la testa al toro, di una Rabobank che ha perso un po' i suoi due capitani, perché era venuta qua con la porta a caccia di tappe e Coy come velocista, e adesso quindi vedremo molto spesso, immagino, i gialli all'attacco. È interessante questa posizione di Tratnik, perché se ci fosse stato Van Aert non avrebbe avuto questa possibilità, ci fosse stato Laporte probabilmente non l'avrebbe avuta, ci fosse stato Coy non l'avrebbe avuta, oggi grazie a queste disgrazie. Quindi è Tratnik li ha eliminati tutti, non ho capito. No, è Tratnik che d'ora in poi corre a Ndokoyo Koyo. Sei frizzantino dopo l'ammiraglia, eh? Quindi per fare sempre un po' di scuola a Pelacci, visto che non mi avete lasciato cantare nessun rimpianto, nessun rimorso, volevo dirvi che al traguardo tra Giubbini, Asciugamani e Fischietti abbiamo raccolto al volo le prime impressioni a caldo di altri due che facevano parte di una delle azioni di fuga della giornata, che sono Filippo Zana e Damiano Caruso, che sentirete in sequenza. No, diciamo che Dema doveva provare ad andare in fuga ed è quello che ha fatto. Poi io, quando ho visto che c'era un bel gruppo, ho detto ci provo. Diciamo che non stavo benissimo, però dai, c'ero lì davanti e ho un po' sofferto, però dai, diciamo che è andata abbastanza bene, ci abbiamo provato e niente, dai, ci riproveremo sicuramente. In quello strappo duro eravamo molto vicini alla fuga, la way, era molto lì vicina, no? E allora ho provato a seguire. Anche perché dalla radio ci avevano detto che c'era una discesa tecnica e niente, praticamente come se mi fossi ritrovato in fuga. Ho visto che c'erano tanti uomini di semiclassifica, comunque importanti, tipo Bardet, e ho chiesto all'ammiraglia cosa fare e niente, sono rimasto lì, mi hanno detto di non spendere. Forse ho sbagliato, ho perso l'attimo quando hanno attaccato Bardet, Tratnik, questi qui. Però forse perché non ero mentalizzato proprio per andare per la tappa, sapevo che comunque nel finale volevamo provare qualcosa del genere. Insomma, alla fine è stata una bella giornata. La voce che fa capolino ogni tanto nell'intervista con Damiano Caruso è quella del nostro collega e amico Enzo Vicennati, con cui condividiamo quei momenti misti che sono quelli del rettilineo finale quando arrivano i corridori, o meglio li avete condivisi voi, perché appunto io, come detto, quest'oggi non ero sul percorso a fare interviste, ero sul percorso a dominare la corsa grazie alle mie tattiche dettate alla radio. No, non è vero, ero in auto, ero sull'ammiraglia della Decathlon con il DS Cyril Dessel, già vincitore di tappa al Tour de France, se non mi ricordo male 2008, ma non me lo sono segnato. Ullala. E il meccanico, preparate l'ullala perché aveva un nome bellissimo, che è Théo Didier Laurent. No vabbè, sono già innamorato. Tre nomi, batte Pelacci anche questo. Molto molto molto accoglienti e molto simpatici, e mi hanno accompagnato in questa giornata. Io sono stato lì, ho cercato di disturbarli il meno possibile, ci siamo fatti anche il nostro piccolo picnic prima della distribuzione borracce, ci siamo mangiati l'insalata di riso. Ah. Abbiamo litigato tanto per riuscire a connetterci alla televisione, ogni giorno ho scoperto che bisogna risintonizzare da zero il televisore dell'ammiraglia, questa è una delle cose che ho scoperto quest'oggi, e a volte anche durante la tappa, perché chiaramente spostandoti perdi la connessione. E un altro momento che ho scoperto che mi ha, così è una banalità, ma io non ci avevo pensato, è il fatto che a un certo punto, quando la fuga è andata e loro erano riusciti a mettere in fuga i due uomini in cui credevano, che avevano deciso già dall'inizio, ci siamo dovuti fermare di corsa per spostare all'esterno le biciclette dei due componenti della fuga della squadra, perché chiaramente devono essere le prime a essere staccate, mentre prima c'era quella di O'Connor e quella di, insomma, seguendo un'altra gerarchia. Fatto sta che siamo partiti, ci siamo seguiti tutta questa giornata. Grandi momenti di divertimento quando ci siamo trovati a lungo dietro l'ammiraglia Ineos, che ha l'antenna più alta rispetto a tutte le altre e quindi prendeva dentro con tutti gli striscioni e tante altre cose appese, e come mi hanno detto loro, Ineo se tu grand. E quindi questa fuga è andata, i due fratelli, soprannominati almeno all'interno dell'ammiraglia Le Petit Valentino e Aurélie, questi sono i soprannomi dei fratelli Parepentre. che corrono da compagni di squadra ma anche da fratelli, per cui è molto bello che l'ammiraglia gli dice: ti do l'acqua anche per tuo fratello, non per il tuo compagno, per così. Questo è il nome. Ad ogni modo, un riassunto molto succinto di quello che è successo in questa giornata in ammiraglia ve lo faccio ascoltare in questo momento. È pieno di francese e anche della lingua che parlo io quando provo a parlare francese. Sentirete un piccolo estratto dell'ultimo chilometro trionfale e una mia riflessione e alla fine due chiacchiere che ho scambiato con Cyril Dessel e Théo Didier Laurent. Ultimo chilometro per Valentin Papetre. Allez, Valentin a gagné, hein, Valentin a gagné. Allez, les mecs. Ah, c'est là, les belles. Comment elle est belle? Oh la vache! Comment elle est belle? Ouais. Oh oui, putain! Belle journée! Waouh! J'espère que tu pourras faire un bon podcast. Ah, bien sûr! J'espère que tu pourras faire un bon podcast. J'espère que vous pourrez faire un bon fête. Incredibile, adesso siamo al traguardo e già da un po', ci sono già state le premiazioni e io ho ancora un po' di pelle d'oca. Confesso di aver fatto di nascosto questa registrazione che avete sentito, che è un estratto dall'ultimo chilometro di tappa all'interno dell'ammiraglia della squadra vincente, qualcosa di, insomma, che non capita spesso. Un'emozione pazzesca per me, ma anche per loro. Devo dire che la gioia era tanta, ma era più di una semplice gioia, era veramente una... il coronamento di un lavoro ben riuscito. Un lavoro dall'ammiraglia attento, ma devo dire mai invadente, sempre soprattutto attenzione a dare i distacchi. Posso arrogarmi qualche piccolo merito di questa tappa perché Radio Corsa nei momenti più frenetici della salita finale comunicava quasi esclusivamente in italiano e quindi mi sono messo a tradurre i distacchi per Cyril. Un consiglio sentito dalla radio che mi riporta alla memoria, ci riporta alla memoria Salvatore Puccio, e il suo famoso mangia, bevi, stai calmo e non strappare. Stavolta Cyril Dessel ha detto via radio: calma e zen e pensa ad alimentarti bene. Per cui un'attenzione certosina agli avversari giusti, soprattutto Romain Bardet, e come si è dimostrato era Romain Bardet l'uomo forse più pericoloso, l'uomo da seguire. Il consiglio sempre al piccolo Valentino, come abbiamo imparato che è soprannominato, era di stargli vicino, di stargli attaccato, ma anche di pensare che Romain Bardet oggi aveva solo da guadagnare. Aveva da guadagnare in classifica, aveva da guadagnare per la vittoria di tappa e quindi essenzialmente stava a lui tirare. Ciò nonostante Valentin ha tirato parecchio anche lui, tanto che... E un particolare è stato vedere il suo attacco da dietro. Eravamo un po' indietro perché c'era un corridore staccato, se non sbaglio Bagioli, per cui eravamo qualche centinaio di metri indietro. E vi posso garantire, quando spesso si dice del ciclismo telecomandato, che questo attacco è avvenuto totalmente spontaneamente da parte di Valentin Paré-Peintre. Addirittura non eravamo concentratissimi forse sul guardare così lontano, e a un certo punto Théo, il meccanico, ha detto l'attacché, attaccato, e da lì chiaramente Cyril si è attaccato alla radio ed è stato un continuo ale ale ale, se bien, ale ale ale. Dai tutto, concentrati sullo sforzo e un continuo vai a prendertela, sei tu bon. È stato uno degli ultimi incoraggiamenti prima chiaramente della festa che immagino proseguirà. C'était un bon journée, Cyril? Oui, c'est une très très bonne journée, très très bonne journée, une belle victoire de Valentin. C'était le plan d'essayer de jouer la victoire avec les deux frères Paré-Peintre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus que parfait? C'est la journée parfaite, les deux coureurs qu'on voulait à l'avant et on savait qu'ils étaient grimpeurs, il y avait des très bons coureurs et donc non, c'est vraiment une très très belle journée, magnifique journée, belle victoire de l'équipe et de Valentin. Théo, c'était une bonne journée? Super journée, tout s'est très bien passé, pas de soucis. C'est quoi la fête ce soir? Oui, forcément. Vous avez de champagne ou quoi? Oui, champagne. Champagne ou vin rouge. Et vous pourrez revenir la prochaine fois. Oui, oui. Merci beaucoup. E dunque, dopo le feste, gli abbracci, ci siamo battuti il 5 e avrete sentito Cyril dirmi verrà un bel podcast grazie a questa vittoria. Gli ho chiesto se è stata una bella giornata, mi dice una giornata davvero davvero buona, una bella vittoria di Valentin. Il piano del giorno era di giocarsi la vittoria con i due fratelli, le deux pépé, come li chiamano loro, e gli posso dire se possiamo dire qualcosa di più di giornata perfetta per questo, e lui dice no, è una giornata perfetta, i due corridori che volevamo davanti, c'erano salite dure da fare, lo sapevamo, sono buoni scalatori, c'erano ottimi corridori in fuga, vittoria magnifica, bella vittoria della squadra e di Valentin. La stessa cosa chiaramente l'ho chiesta anche a Teo, che ha detto super, è andato tutto benissimo, senza problemi, e quindi gli ho chiesto la festa di stasera cosa prevede, se si sono portati dello champagne, e mi hanno detto sicuramente champagne o vino rosso, e quindi chiudono invitandomi a tornare anche un'altra volta, perché effettivamente ho portato bene, caso incredibile. Dove pensi di andare? Comunque io adesso non posso fare altro che continuare a immaginarmi i due fratelli Parepentre come i gemelli Derrick, che ci mancava solo la catapulta oggi, comunque erano in posizione di sparo, giustamente, come ci raccontavi tu dall'ammiraglio. Anche perché, come abbiamo detto prima, nell'ordine d'arrivo poi Aurélien ha vinto la volata degli altri fuggitivi e Ben O'Connor è stato in un certo senso il migliore degli uomini di classifica, arrivando primo nel gruppo Maglia Rosa, gruppettino Maglia Rosa. Parliamo un attimo di quello che è successo in classifica. Poco, abbiamo visto una Bahrain molto attiva, per quanto poi alla fine della tappa Tiberi abbia perso 4 secondi dalla maglia rosa, ma ne abbia guadagnati alcuni su Kian Uijdebroeks. Ora non so qual è l'obiettivo di questo attivismo della Bahrain, se puntare al podio, immagino di sì, o alla maglia bianca. Penso che il podio sia un obiettivo sicuramente più succulento per Antonio Tiberi, che sta bene nonostante i 4 secondi persi oggi dai migliori. Comunque erano veramente molto carini. Quando è arrivato Tiberi è corso ad abbracciare e ringraziare Damiano Caruso, che aveva fatto comunque un sacco di lavoro, si sono ringraziati, e poi Damiano Caruso, andando via, scendendo in bici, ha detto vabbè, su, andiamo, come un po' un fratello maggiore, un papà che si porta dietro il giovanotto. Esatto, addirittura è stato un meccanico della Bahrain che gli ha detto dai Damiano, porta giù i ragazzi, riferendosi a Zambanini e Tiberi. A me piace il coraggio di Tiberi, però posso dire? Certo che lo puoi dire, e l'ho avuto, ma della Bahrain diremo di più avanti e scopriremo insieme perché. Diciamo qualcosa di Tadej Pogačar, che anche oggi, essendo la maglia rosa, abbiamo visto in conferenza stampa. Come ho detto prima, ha detto per quieto vivere, tra le righe ha detto questo, per quieto vivere oggi abbiamo fatto andare via la fuga. Come si è piazzato Pogačar quest'oggi? Come ce si l'hai è piazzato in classifica di tappa? Di tappa Pogačar di tappa. È arrivato 17esimo. Quindi possiamo dire delusione Pogačar. Delusione oggi. Perché sì, in effetti è arrivato troppo avanti, forse troppo dietro. Allora era per questo che gli UAE, scendendo invece a piedi, c'è stato questo siparietto in cui si vede che raggiungevano le macchine, sono passati con il pranzo, diciamo, con il cibo per rifocillarsi dopo la tappa, con indispettiti attraversando le persone, e con Maika, che ho sentito appunto lamentarsi molto in maniera anche lui fumantina in italiano. E beh, è giusto così. Posso dire che noi dobbiamo ogni conferenza stampa di Pogačar leggere un po' tra le linee, no? Tra le righe. Si legge tra le linee o tra le righe? Vabbè. Tra le righe, perfetto. Sì, confermo. Non è un dubbio, vero Filippo? Vero. Ha detto, non è una questione di posso vincere o meno. Qui secondo me Pogačar intendeva. È chiaro che io posso vincere sempre. Ogni volta che la strada tende lì in su, anche per pochissimi centinaia di metri, posso vincere. E non solo, anche quando non tende all'insù, esatto, può vincere. Ma a volte i miei compagni di squadra, o le tattiche della mia squadra, o un sistema che non so, forse stigmatizza, tra virgolette, chi vince troppo, lo hanno portato a rimanere in gruppo. Sì, è vero, è vero. Ha detto questo, parafrasando le sue risposte, però in generale l'ha detto in un modo sereno. Io l'ho visto più calmo del solito, gliel'ho detto. Ho detto, Tadej, da Napoli in poi, cioè dall'ultima tappa col giorno di riposo, sembri più rilassato, è così? E lui ha detto, sì, devo essere calmo, forse qualcuno gliel'ha fatto notare o ci hanno parlato, anche perché io a luglio ho un altro impegno importante, non è che possa spendere troppe energie fisiche e mentali al Giro. Forse secondo il classico vedi Napoli e poi muori, Taddei ha abbattuto il suo vecchio Taddei e abbiamo un nuovo Taddei dopo il passaggio, un altro, dei replicanti. Ogni settimana c'è un Taddei diverso, ma vedremo, continuiamo a tenerlo d'occhio, a monitorare la sua evoluzione e cosa di meglio può aiutarci a farlo se non la rubrica, di l'altra rubrica che Marta cura da inizio giro per noi, che si chiama Pogacario, e quindi scopriamo anche oggi una piccola curiosità, pillola sul nostro leader della classifica generale. Molto volentieri, perché nelle mie ricerche ho fatto due chiacchiere anche con uno dei DS di Taddei, Emanuele Mori, che ha avuto, come mi ha detto lui stesso, la fortuna di dividere la camera con Taddei, e infatti lui, diciamo, si è ritirato, hanno fatto in tempo a correre insieme un anno, quindi nel 2019. E lui appunto ne ha parlato con grande entusiasmo, come tutti quelli a cui si chiede qualcosa, è esattamente come lo vedete, è una persona piena di entusiasmo. E mentre io cercavo di capire, di appunto, come direbbe Pelacci, leggere tra le righe, di chiedergli se per caso appunto se subisse troppo la pressione, Mori mi ha raccontato che Taddei ci tiene tantissimo a dare il giusto spazio ai suoi fan, e quindi il fatto di non poter essere qui, probabilmente appunto avere molti impegni, di non poter dedicare e rimanere tra la folla, un po' gli dispiace. Quindi c'è questa cosa, poi altre cosette che mi ha raccontato, alcune le sentirete magari più avanti, ma sono ovviamente che lui ci teneva tantissimo a questa maglia rosa, che gli piace proprio. Oggi anche la Gazzetta, Fashion Police, diceva che guai la maglia rosa, eccetera, voleva proprio vestirla, e ora che la veste è un po' più tranquillo. Il Giro d'Italia è una corsa molto coinvolgente. Dei ciclisti coinvolgenti pedalano su degli attrezzi coinvolgenti che i più amano chiamare biciclette. Tutto coinvolgente, sì, ma come mai nessuno parla mai delle inquietanti verità del Giro? Perché nessuno ha il coraggio di parlarci dei misteri di questa coinvolgente manifestazione? Perché, ad esempio, nessuno dei corridori nelle dichiarazioni post-tappa ha mai detto la parola Ulamalapala? La nostra redazione ha analizzato ore ed ore di video e registrazioni e nessun ciclista ha mai detto la parola Ulamalapala. Vogliono farci credere che in più di 100 edizioni nessun ciclista ha mai avuto l'esigenza di pronunciare la parola Ulamalapala? È un caso, è forse un caso, ma è un caso che la parola Ulamalapala non sia mai stata pronunciata neanche da un templare? È forse un caso che Ulamalapala non compaia neanche, guarda caso, nella Costituzione degli Stati Uniti d'America? È forse un caso che anagrammando Ulamalapala si ottenga la parola Palamalawala, un'altra parola che nessuno ha mai detto? Che cosa vuol dire? È un segnale. Le nostre indagini ci hanno condotto a Maria Maria. È un nome di fantasia per tutelare la sua identità, perché Maria Maria è una testimone. Maria Maria, lei è un'esperta di parole crociate. Sì, sono un'esperta, le faccio da oltre 30 anni. Senta, se non sbaglio, lei è anche laureata in lettere. Sono laureata in lettere con master in parole crociate. Senta, nella sua esperienza pluridecennale, ha mai sentito la parola Ulamalapala? Mi scusi, mi può ripetere la parola? Ulamalapala. Mai sentita! E come se lo spiega? Beh, me lo spiego che... Inquietanti parole, quelle di Maria Maria, che nascondono inquietanti verità. E adesso che il vaso di Pandora è stato scoperchiato, per voi il Giro non sarà più lo stesso. Ulamalapala. speriamo non ci vengano a prendere dopo questa. Cioè, secondo me stavolta abbiamo veramente scomodato i poteri forti. Ho paura anche se mi chiedo, ma chi è questa redazione che ha analizzato ore di video cercando questa cosa? No, è incredibile, anche perché io comunque le inquietudini rosa le sto molto analizzando. Mm. Sei tu che quindi analizzi ore di audio, certo. Invece. E beh, è tutto strano perché la prima testimone era Maria Piovanella, la seconda era Maria Mariella e ora è Maria Amalia. Ma sono nomi di fantasia. Ah, dici? Certo, lo dice il nostro reporter scomodo. Ma sono coincidenze? Non credo siano coincidenze, comunque se non ci sentite domani sappiate che così abbiamo lasciato trapelare troppe cose. Bene. Ma diciamo, facciamo un piccolo passo indietro al giorno di riposo, la tappa più attesa del Giro. C'è chi si è fatto togliere 15 anni andando dal barbiere, ma in realtà, anche se di solito i vulcani sono un po' affare di Leonardo, sia io che Michele abbiamo voluto andare un pochino a metterci il naso anche noi in qualche modo. Quindi sentirete prima il racconto ansimante della scalata al Vesuvio del mitico Pelacci in bicicletta, ovviamente, chiaramente, non a mani nudi, insieme a un nostro ascoltatore storicissimo, Vincenzo Piccirillo, oltretutto grande esperto di cultura culinaria, di cui io ho beneficiato perché il Pelacci pedala e io magno. E poi sentirete un mio raccontino dagli scavi di Pompei, in cui sono... Da dove poi oggi è partita la tappa numero 10 del Giro. E quindi ascoltiamo questi due contributi uno dopo l'altro e poi torniamo. Allora, siamo qua sul Vesuvio con local legend Vincenzo Piccirillo, amico di Bidon e di Alvento da tanti anni. Li ho sempre seguiti e letti e adesso ho avuto la fortuna che mi sono venuti a trovare fino a casa. E il buon Pelacci mi sta ascoltando sul Vesuvio. Rocco Hunt salendo verso il Vesuvio, quasi in cima, si claxonano pure, allè! For my friend Vincenzo! Ale, ale! Forza! Non è stato niente mantellina. Niente mantellina? C'ho un cazzo, Vince. Ma ascolta, come si dice in dialetto napoletano, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, su te, Michele, non c'erano dubbi. Per me, invece, nonostante l'ho fatto centinaia di volte, c'era qualche dubbio in quanto ci manco da un paio di anni su Vesuvio. Ma grazie al tuo gregariato siamo arrivati in cima sani e salvi. Grazie Vincenzo. Salutaci in napoletano. Ciao a you, ci vediamo di mano. Siccome il giorno di riposo è fatto per l'ozium, qui a Pompei ci ricordano che riposare è importante tanto quanto l'azione, anche perché proprio l'ozium era, come ben saprete, la parte del pomeriggio, la parte adatta quindi al riposo costruttivo, e quindi era il momento perfetto per andare a rigenerarsi alle terme. Chissà quanti lo faranno oggi. Adesso siamo nella casa del fauno, dove diciamo vediamo una copia del mosaico di Alessandro, che è uno dei primi, direi una delle prime foto sportive. Abbiamo la battaglia tra Alessandro e Dario III. Dario III raffigurato con l'elmetto, direi sicuramente un casco da crono, mentre Alessandro con i capelli neri al vento e il capello fluente indica il vincitore. Quindi è molto chiaramente colui che è sul podio. La mia gita oggi prosegue dopo l'anfiteatro, che ha chiaramente la forma di un velodromo, e la piscina antistante. Ho quindi scovato la palestra degli Juvenes nel vicolo della Regina, e non dico altro, che è in una zona di Pompei che era chiusa al pubblico da moltissimo tempo ed è stata riaperta nel 2016 dopo i lavori di messa in sicurezza. Diciamo che dall'esterno però si vede questo bellissimo mosaico con proprio una scena di due atleti che lottano all'ingresso dell'edificio, e a questo punto uno dei due è sicuramente Taddei, l'altro forse dobbiamo ancora capire bene chi è. E sulla parete di fronte in realtà ci sono tutta una serie di affreschi che ritraggono atleti, lottatori, c'è anche un saltatore con i manubri, c'è il giudice di gara che oggi ha lasciato la carovana evidentemente, e il Ludi Magister che reca in mano la benda premio, diciamo che il trofeo senza fine questa volta è decisamente meglio. E dunque questo era il nostro giorno di riposo. Oggi il giro è partito da Pompei, giustamente perché oggi è il 14 maggio e doveva omaggiare le Muralia. Credo sia stato per quello che si è svolta questa partenza, no Pelacci? Tu sei, diciamo, esperto di festività romane. Io non so di cosa tu stia parlando. La festa degli Argei. No, non ce l'ho. I principi giunti nella penisola italiana al seguito di Ercole stabilitisi al Campidoglio, in un villaggio fondato da Saturno. Niente. No. Pensa che oggi a Roma, come tutti i 14 maggio, c'era la classica processione delle vestali che lanciavano nel Tevere i fantocci in giunco rappresentanti gli Argei. Certo, credo certo, continuino sì a farla, non lo so. Per cui c'era questo omaggio sicuramente. E ieri giorno di riposo, giorno del mio primo bagno di questo Giro d'Italia, finalmente, posso dirlo con orgoglio. Voi avete fatto un sacco di cose, sia ieri che oggi. Io oggi, come sapete, ero impegnato sull'ammiraglia. Allora, prima di passare alla giornata di oggi, vorrei leggervi la mia top 5 delle cose che ho visto dall'ammiraglia sulla strada della tappa di oggi. Siete pronti? Al quinto posto lo striscione del comune di San Felice a Cancello, classico striscione San Felice a Cancello saluta il giro, e sotto c'era una riga in più, amministrazione con il nome del sindaco, perché in Italia le cose vanno fatte per bene. Al quarto posto una signora vestita da farfalla a bordo strada, con cui ho parlato perché al momento della distribuzione delle borracce, e lei mi ha detto: c'è chi si veste da sirena e chi si veste da farfalla. Io mi sono vestita da farfalla perché i ciclisti volano. È bella, però non era un omaggio a Dumoulin, però. Forse era un omaggio a Dumoulin, non me l'ha detto. Al terzo posto una signora che, non avendo niente di rosa, sventolava un ramoscello di una pianta di rosa con tre rose. Spero che non si sia fatta troppo male. Al secondo posto questo striscione eccezionale: Pantani, due punti, imitato forse, eguagliato mai. Poesia. Ma al primo posto, ed eroe di questo Giro d'Italia, nella prima parte di tappa delle strade abbastanza tortuose, con delle curve abbastanza secche, un signore, un volontario della Protezione Civile, che queste persone fondamentali che regolano, bloccano gli accessi e aiutano lo svolgimento della corsa, era talmente preso dal suo ruolo che si era portato da casa una scopa, e a ogni passaggio in ammiraglia lui scopava via il terriccio e la polvere dalla strada in modo che la curva non diventasse troppo pericolosa. Ma era praticamente curling. Era praticamente curling. Si sa che il mio sogno è abbinare il ciclismo al curling. Questo è stato quello che ho visto io oggi. Voi avete visto cose altrettanto interessanti. Tutto molto bello, come diceva qualcuno. Noi abbiamo visto un po' meno, perché dopo aver incontrato i corridori a Pompei, e ve ne parliamo tra poco, abbiamo fatto il percorso alternativo che ci ha portati poi a fare sul percorso di gara solo l'ultima salita. Siamo arrivati a Cusano Mutri e di lì siamo saliti verso Bocca della Selva. Ci siamo fermati in località Pietra Roia di fronte al Jurassic Pub, un bellissimo locale sito proprio in Pietra Roia, a parlare col vice sindaco e poi con altri amici del comune, del piccolo comune di Pietra Roia. Abbiamo chiacchierato con il vice sindaco Gabriele Iannicola. Finalmente la quota sindaci di questo podcast, che si allarga anche ai vice sindaci, prende quota. La quota prende quota. Prende quota e ce l'ascoltiamo subito. Allora, dove ci troviamo e con chi siamo? Allora, siamo con Gabriele Iannicola, al momento vice sindaco del comune di Pietra Roia, in una piccola comunità ai piedi del Monte Mutria, di circa 500 anime. E diciamo, è una ridente comunità, diciamo così, no? Al momento vice sindaco, perché cambia spesso l'amministrazione in questo comune? No, non cambia spesso, ma il 9-10 luglio siamo chiamati anche noi alle elezioni comunali, quindi chi vivrà vedrà, diciamo così. Allora, io ho l'impressione che non succedano tantissime cose a Pietraio, però magari mi sbaglio. Il Giro d'Italia è uno degli eventi più importanti mai accaduti nella storia di questo comune o no? A livello mediatico potrei dire di no, perché non so se conoscete un po' la storia di Pietraroia, quindi che vanta uno dei giacimenti geofossiliferi più importanti del centro-sud Italia, se non d'Europa. È lì che è stato trovato anche il piccolo cucciolo di dinosauro Ciro. Un attimo, arriviamo all'argomento più importante, Ciro. Dici di più di Ciro, come è stato trovato? Diciamo, la scoperta è avvenuta in maniera casuale nel 1980 da un appassionato di fossili di nome Giovanni Todesco di Verona. Questo appassionato si trovava nella zona perché, come vi dicevo, Pietraroia vanta uno dei campi scavi più importanti in Italia. È venuto qui, ha trovato delle pietre particolari, è subentrato il terremoto dell'Irpinia dell'80, quindi ha racchettato un pochino tutto ed è tornato via. È andato un po', queste rocce sono andate un po' nel dimenticatoio, nel 90 ha cominciato a ripulirle e è inutile dirvi che mano a mano usciva una zampetta, un artiglio, qualcosa, ha trovato qualcosa di particolare che non ha riconosciuto subito. L'ha fatto analizzare da Giorgio Teruzzi, il direttore di storia naturale di Milano, del Museo di Milano, che come l'ha visto, insomma, gli stava quasi cadendo tra le mani perché era una cosa impensabile trovare un dinosauro in Italia. E qui ci ricolleghiamo al discorso di Ciro, quindi questo piccolo cucciolo di dinosauro che è stata, diciamo, questa importanza scientifica è stata portata alla luce soltanto nel 93, però di immane importanza. Si ipotizzava che l'Italia era una terra giovane, nuova, quindi non avendo trovato reperti terrestri antecedenti 60 milioni di anni fa, gli esperti ipotizzavano che era in man mano in via di formazione, di emersione, quindi sui 40-50 milioni di anni fa. Però questo piccolo dinosauro ha circa 113 milioni di anni, stimato al carbonio 14, quindi dal suo ritrovamento hanno dovuto un po' rielaborare il tutto, quindi certificare tracce d'Italia, non tutto lo stivale che è adesso, però piccole isolette tropicali come era Pietraroia, però era già presente qualcosa che poteva già chiamarsi Italia. Quindi qui c'era l'oceano una volta. C'era l'oceano, era il mare aperto. Diciamo, Pietraroia come conformità era conformata come una laguna tropicale. Diciamo, queste montagne che vedete erano piccole isolette emerse, però era come un entroterra protetto da isole, quindi venivano a crearsi degli ambienti salmastri, ricchi di sedimenti, scarsità di ossigeno nell'acqua, e questo favoriva la fossilizzazione. Grazie, siamo sotto l'ombrello perché ha cominciato a piovere, sentite passare i mezzi perché tra un po' passa la corsa. Esatto. Collegandoci all'importanza internazionale che ha avuto, e gli è stata anche la prima pagina della rivista scientifica Nature, lui ha subito un procedimento di fossilizzazione rarissimo al mondo, perché di norma nella normale fossilizzazione si conservano le parti scheletriche, le parti ossee, quindi le parti dure. Nel suo caso ha subito questo rarissimo caso di fossilizzazione che gli ha permesso la conservazione anche degli organi interni, quindi delle parti molli. E lui in effetti ha conservato una parte di trachea, muscoli pettorali, l'intestino anteriore e posteriore e tratto dei muscoli della coda. Quindi diciamo così che è la prima volta che nel mondo si è potuto studiare un dinosauro nella sua interezza. Un esempio, lui era un carnivoro, non so se avete presente, era piccolino, tipo 30 cm, era un cucciolo, però già aveva i denti aguzzi, quindi dai denti si ipotizzava che fosse carnivoro. Però con lui abbiamo avuto la certezza, perché immaginate che nell'intestino si sono conservati i resti dell'ultimo pasto, quindi gli esperti hanno identificato piccoli pesci e lucertoline. Quindi secondo loro lui già 3 settimane di vita, quindi 20 giorni, era anche autosufficiente. No, mi colpisce come ti riferisci a lui, come se fosse un amico, uno di famiglia, è così? Noi lo chiamiamo Ciro perché è un nomignolo che gli è stato dato un po' dai primi esperti, essendo napoletani gli hanno dato questo nome, diciamo, di indicazione geografica tipica, no? Anche se poi noi siamo ai confini col Molise, però il nome scientifico è Scipionix samniticus. Noi lo chiamiamo Ciro così perché è uno di noi. Stiamo facendo del tutto anche con l'amministrazione comunale per riportarlo a casa, perché attualmente è gestito dalla Soprintendenza dei Beni Archeologici, che hanno il patrimonio sui fossili, quindi sull'area archeologica. E quindi dove sta Ciro in questo momento? Al momento è a Benevento, perché noi abbiamo il Museo Paleolab qui a Pietraroia. Allora, direi, prima che dal paese di Ciro passi il giro, avviciniamoci al centro ricreativo che avete messo su, dove, non so, si mangiano pesciolini, lucertole. No, mangiamo prodotti tipici locali, che noi, diciamo, siamo famosi anche per i salumi, in modo particolare per il prosciutto di Pietraroia. è stato premiato in tante occasioni. Prosciutto di dinosauro. Di dinosauro, no, di maialino nero casertano, diciamo così. È squisito, ha un costo elevato, ma diciamo quello che aumenta il costo è la manifattura, perché si fa prettamente come si faceva un tempo, quindi con la pressa in legno, quindi risulta un prosciutto schiacciato, un grasso particolare che molte volte ha più sapore il grasso che il prosciutto, e ve lo farò assaggiare se c'è l'occasione. Un caffè c'è anche, perché sai. Sì, sì, al momento sì. Allora andiamo. Grazie mille. Grazie a voi. Ma il sindaco c'è? Il sindaco sì, è lui. Sindaco, buonasera. Buonasera. Bravo, bravo. No, bravo, ragazzi. È stato super preciso. Ma io perciò ho delegato lui, mica sono fesso. Lui è bravissimo. Non so, Gabriele, se voglio mangiare? Volete mangiare qualcosina? Se facciamo una pizza. Noi dobbiamo andare su adesso. Esatto, esatto. Sì. Grazie. La birra volentieri, ma poi andiamo via. E allora, nonostante poi l'invito rivoltoci non ci siamo potuti fermare a mangiare perché il giro stava per sopraggiungere, ringraziamo il vice sindaco di Pietraroia e non solo, Michele, ringraziamo chi ha reso possibile questo incontro. È Imma Abete, collaboratrice di Al Vento, che ascolta il podcast col marito Christian e i figli Anita e Andrea. Salutiamo tutti, lei è di Montesarchio, uno dei tanti paesini magnifici delle zone del Sannio, del Partenio, del Taburno Camposauro attraversate oggi. Citiamo solo un'altra cosa che ci ha suggerito Imma, perché vale la pena. Purtroppo non riusciamo sempre ad approfondire perché la logistica odierna, ma tanti giorni, è abbastanza folle, ovvero un incontro, ci ha suggerito Imma, con uno dei flagellanti di Guardia San Framondi. Ogni 7 anni in questo paesino della provincia di Benevento si tengono riti di penitenza in onore dell'assunta, e si terranno proprio quest'anno, diciamo seconda metà di agosto nel 2024, quindi se volete andare a Guardia San Framondi, questo è l'anno. Questo è l'anno, non perdete questa opportunità, come le eclissi, passano periodicamente, non bisogna lasciarsele scappare. Ma torniamo a questa mattina a Pompei, ho incontrato un corridore che oggi, se avete visto la tappa, a un certo punto avete visto in testa al gruppo Maglia Rosa, perché stava tirando per il suo capitano Antonio Tiberi. Sto parlando di Rainer Kepplinger, austriaco della Bahrain, del team Bahrain, classe 1997, non è giovanissimo, non è un ragazzino, ma è al suo primo grande giro, perché lui in bicicletta sul serio ci va solo dal 2021, quindi da 3 anni. Prima faceva altro, era un canottiere, e adesso vorrebbe diventare un uomo di classifica, ma adesso sta ancora lavorando, sta ancora cercando di migliorare. Ascoltiamo quello che mi ha detto stamattina. Good morning, Rainer. So, second week of your first Grand Tour. What are your goals for the second part of the Giro? Yeah, my goals is to support Antonio Tiberi because he's feeling really good and doing a great job so far. And yeah, I try my best to support him that he can make a good result. You have a kind of a unique story in the peloton because you come from rowing, a different sport. Can you tell me more about your transition from rowing to cycling? Yeah, I also did before, when I was a rower, a lot of training on the road bike, and yeah, I really had a lot of passion about cycling. And at one point I got the chance to ride for an Austrian continental team, and yeah, so I got into the road cycling, and yeah, I really like it so far. Make good progress and hope that the progress is continuing. Buongiorno Rainer, seconda settimana del tuo primo grande giro. Quali sono i tuoi obiettivi per la seconda parte della corsa? L'obiettivo principale è supportare Antonio Tiberi, che si sente bene, sta facendo molto bene. Il nostro scopo è fare in modo che lui ottenga buoni risultati. Ti ho chiesto quindi della sua storia, che è abbastanza unica nel gruppo, perché viene da un altro sport, dal canottaggio. Gli ho chiesto, mi racconti questa transizione, e lui ha detto, già quando ero canottiere facevo molta bicicletta su strada, il ciclismo mi ha sempre appassionato, a un certo punto ho avuto l'opportunità di correre per davvero con una squadra continentale austriaca, e da allora mi sono dedicato a questo sport a tempo pieno, ho fatto dei buoni progressi, spero che questi progressi continuino. Have you been here competing with rowing in Italy before or not in the past? Yeah, I also was sometimes in Italy, also on training camp in like, it's called Sabaudia, near Rome. So I also spent a lot of time in Italy when I was a rower. And you won a few competitions, right, in rowing? What kind of? Yeah, my biggest victories was under 23 World Championship. I made bronze medal in the single scull. So this was something I was really proud of. Sei stato già in Italia in passato, gli ho chiesto, magari per le gare di canottaggio, e lui ha risposto sì, ho fatto dei ritiri a Sabaudia, vicino Roma, ho passato diverso tempo in Italia anche quando ero un canottiere, e hai vinto delle competizioni importanti anche, se non sbaglio. E lui ha confermato sì, il mio risultato più importante è una medaglia di bronzo ai mondiali Under 23 nel 2017 nel singolo pesi leggeri, una cosa di cui sono molto orgoglioso. Gli ho chiesto che differenza c'è, se c'è, nello sforzo richiesto da uno sport come il ciclismo e invece quello del canottaggio. It's different kind of suffering, knowing you need to go every race full gas, 100%, what you can do. And in cycling it's also a bit about tactic, but also super hard, so it's different. You like suffering anyways, in one or the other. Yeah, I think when you're an athlete, you need to like to suffer. Did you have to work on your body, changing from one sport to another, because rowers have these big arms? Yeah, of course I try to lose some weight, also some muscle on the upper body. And also from the endurance side, it's different racing, so to the long races. But yeah, I make good progress and getting better from year to year. What's one characteristic that you have from rowing that is very useful also in cycling? Yeah, that I can go really deep and hard, especially on hard climbs when you really need to fight to hold the wheels. Yeah, I think this is something I really have from rowing, that I can go really, really deep. È un tipo diverso di sofferenza, ha detto lui. Nel canottaggio devi andare sempre al massimo tutta la durata della gara per ottenere quello che ottieni, mentre nel ciclismo c'è anche una parte di tattica, pur essendo comunque uno sport durissimo. E io gli ho detto, mi sembra che a te piaccia la sofferenza in un modo o nell'altro. E lui ha confermato, sì, quando fai questi sport deve piacerti la sofferenza. Gli ho chiesto, hai dovuto lavorare sul tuo corpo cambiando sport? Perché i canottieri hanno queste braccia molto grandi, invece al momento lui assomiglia più a un ciclista, evidentemente. Sì, ha risposto, ho dovuto perdere peso e massa muscolare nella parte superiore del corpo e ovviamente allenare meglio la resistenza che le lunghe distanze del ciclismo richiedono. Però ho fatto progressi anno dopo anno, sono contento. Una caratteristica del canottaggio che ti è utile anche nel ciclismo? Ho chiesto, che è importante riuscire ad andare a fondo nello sforzo, specialmente sulle salite. Questa è qualcosa che grazie al canottaggio so come si fa, cioè andare a pescare dentro di sé le ultime energie residue. E infine ho parlato con lui di caffè, perché ho scoperto sul suo sito internet che Rainer Kepplinger è un grande bevitore di caffè e quindi tra simili ci siamo riconosciuti e quindi l'ultima parte dell'intervista riguarda il caffè. Now I want to talk a bit about coffee, because I read that you are very passionate with coffee. I also am, and I would like to know, what's your favorite, first of all? Well, yeah, we have a lot of good coffees in my place at home. Where is your place at home? I live in Linz. And yeah, I like espresso in the morning. Sometimes also I drink filter coffee. I like actually every coffee. You make it yourself? You have a machine? What kind of? Yeah, I have a rocket espresso at home. And I also made like with the AeroPress sometimes coffee. And yeah, coffee is really something I really like. And during the Giro, how does it work? You have one in the morning and then after the race? Yeah, of course we have a rocket machine in the bus and also in the kitchen truck. So in the morning we always have good coffee. Yeah. How many in a day? Three, four coffees for sure. And one before bed also? No, before bed not. Grazie mille, Rainer, and good luck for the rest of the Giro. Thank you. E allora ho detto, finalmente possiamo parlare di caffè. Lui ha detto che la sua giornata, ha scritto che la sua giornata inizia e finisce con una tazza. Qual è il tuo caffè preferito? Gli ho chiesto. Abbiamo una buona cultura del caffè a casa mia, a casa sua è a Linz, in Austria. Mi piace l'espresso, ma anche il caffè filtro, insomma, in realtà mi piace tutto. E gli ho chiesto, te lo fai tu? Che macchina hai? E lui ha detto, ho una Rocket Espresso a casa, che è un tipo di macchina per fare il caffè professionale, ma domestica, si può avere in casa. Ma a volte uso anche la Aeropress, che è una macchina che fa il caffè a mano, insomma. Il caffè è qualcosa che amo davvero. E al giro, quando lo bevi, gli ho chiesto al mattino. Di solito abbiamo una Rocket anche sul bus e nella cucina mobile della squadra. Quindi se vogliamo un buon caffè possiamo sempre averlo. Quanti in un giorno? Gli ho chiesto, a quel punto domanda fondamentale. Lui ha detto certamente 3 o 4, dipende. E uno anche prima di andare a letto? E invece su questo mi ha detto no, prima di andare a letto no. E si è messo a ridere. È un ragazzo molto timido, sono contento che si sia un po' sciolto parlando di caffè. Chi non è timido ma mi ha fatto un bel sorriso all'arrivo, nonostante fosse un po' così, arrivato in ritardo, in condizioni anche fisiche non esattamente al top, è Giulio Pellizzari. Che ha perso tanti minuti oggi, 35 minuti, lui aveva già detto che la classifica non era il suo obiettivo, però è uno di quei giovani che in prospettiva l'Italia sogna, no? Che diventino un grande corridore da corsa a tappe. Stamattina gli ho parlato, sentiamolo. Giulio, stai toccando il naso, come stai? Ma insomma, diciamo non proprio al top, un po' di raffreddore, un po' di tosse, però ieri mi sono riposato, speriamo che andrà solo migliorando. Giorno di riposo, quindi non hai fatto pedalate, niente? Ma ho fatto un'oretta a spasso, pausa al bar, tranquillo. Cosa hai mangiato al bar? Ho preso un vignè al pistacchio e un cappuccino. Ho letto che finora hai avuto un solo salto di catena, ma l'hai rimessa su da solo e sei ripartito. Ci racconti un po' la scena, dove eri, sei dato nel panico? No, era la salita dei Gavelli, la partenza di Spoleto, la seconda salita e per fortuna in quel momento l'andatura stava un attimo calando, quindi l'ho rimessa e sono ripartito subito, tranquillo. Se non sbaglio sei già stato al processo alla tappa. Com'è stato? Guardavi la trasmissione del bambino? Sì, beh, quella lì l'ho sempre vista e è stata una bella esperienza, dai. Se fare le interviste al processo alla tappa è duro come un Giro d'Italia, diciamo. Fare un'intervista per il nostro podcast Gironimo è un trofeo Piva, un Giro di Romagna. Cosa tranquilla, dai. Tranquillissima, perché ho letto che hai usato anche 27 borracce finora. Sì. Una all'ora circa. I tuoi meccanici oggi viaggiano a un ghiacciolo all'ora, invece. Vabbè, ma loro è sempre così. A prescindere dalle ore. Sempre in questa intervista con Marco Pastonesi, per il foglio, ti chiedeva un rimpianto e tu no, secco. Una gioia e tu no. Un dispiacere? No. Però qualche emozione penso che tu l'abbia provata al giro. Sì, dai, è dalla prima tappa che sto vivendo tante emozioni, è una bella esperienza, c'è tanto, davvero tanto tifo, quindi un'emozione pedalare al giro, ecco. Ti ho visto anche dopo, ti faccio vedere una foto che ho fatto con tuo tifoso all'arrivo della prima tappa. Prima tappa sulla quale sei stato il primo a saltare sulla ruota di Pogacar, no? Sul San Vito. Sì. Parlavi un po' di... pensavi di potercela fare? L'istinto, com'è andata? Ma più che altro sì, l'istinto. Quando l'ho visto passare mi sono buttato dietro, anche se sapevo che non l'avrei tenuto, però ci ho sperato e dai, è stato emozionante perché c'era davvero tanto pubblico, tanta gente che urlava, quindi avevo la pelle d'oca, è stato emozionante. Come Icaro, il personaggio mitologico, che si scottava troppo quando è andato vicino al sole, tu sei un po' rimbalzato? Sì, uguale. Stessa fine, penso molti corridori hanno fatto questa fine. Poi però su Instagram hai scritto che volevi solo aggiornare l'album, no? Delle tue foto con lui. Quello del 2019, eri un bambino tu, com'è che conoscevi già Pogacar, che era giovane anche lui? Sì, era... credo che era la sua prima gara World Tour, era le Strade Bianche e lui l'anno prima ha vinto il Tour dell'Avenir, quindi lo conoscevo per quello, perché seguivo un po'. Mi ricordo che ero con mio amico e gli dissi, guarda, fatti la foto con lui e questo diventerà forte. Lui fa, no, ma chi è questo? Non c'era nessuno avanti il bus, c'ero solo io, sono fatto la foto e ha portato bene, dai. E dunque, ringraziamo Giulio Pellizzari, gli facciamo un in bocca al lupo, perché evidentemente questa è stata una giornata di fatica e di sofferenza, ma ci auguriamo, anche andando verso le sue strade più o meno di casa, che possa riprendersi e possa farsi vedere anche nei prossimi giorni. C'è una persona che ama la sofferenza invece e si fa vedere tutti i giorni, è il nostro Michele Pelacci, a cui ancora una volta abbiamo affidato un ruolo, perché nella prima metà di giro ci ha accompagnato Domenico Pozzovivo con le presentazioni di tappa. In questo momento onestamente non ci sentiamo di pressare troppo il buon Domenico Pozzovivo quando il giro entra nel vivo, perché ci mandi ogni giorno le presentazioni di tappa, ma abbiamo il nostro pozzo di scienza parmense, Michele Pelacci, Florindo, eccetera eccetera. Tappa con inizio mosso, domani, tra San Bartolomeo in Galdo, Pietracatella e Casa Calenda. Ormai avrete capito che in questa rubrica non faccio altro che pronunciare con gusto toponimi assurdi. I 100 km finali, invece, sono totalmente piatti sul lungomare, prima molisano, attraverseremo Termoli domani, poi abruzzese. La probabile volata finale avverrà nell'ultimo comune chietino della costa, Francavilla al Mare. Marta, hai un pronostico? Così a bruciapelo? A bruciapelo. Certo che sì, invece, perché visto che c'è qualcun altro che si è tagliato i capelli, e credo che sia comunque un buon segno, sarà una svolta Pitti, Lawrence Pitti. Il mio pronostico, un po' sorpresa forse, e di chi sarà il merito se vince Andrea Vendrame? Non lo so, di Andrea, molto probabilmente di Andrea Vendrame. Scusami, vince Andrea Vendrame perché va via una fuga anche domani, o vince in volata? Vince in volata. Vince in volata Vendrame contro i velocisti. Qua si azzarda veramente a più non gruppo posso. Ristretto, dai, gruppo ristretto. Quindi fuga. No, gruppo selezione. Ristretto. Non so da... Vento? Che cosa succede? Non so. Non lo so. Succede non qualcosa. Lo comunque che... ci sarà una giornata ristretto. Di ristrettezze. Questa che ci aspetta, speriamo, non per la nostra alimentazione. Io sto con Tim Merlier. Ok, lasciate così Jonathan Milan disponibile per lasciarmi Milan. Avrei detto Groves per cambiare, ma lasciate libero Jonathan Milan, me lo prendo molto volentieri. Milan. Bene, abbiamo fatto il nostro giro di pronostici, non abbiamo però ancora concluso la nostra puntata come al solito, perché c'è un appuntamento che per quanto sbarbato Pelacci deve affrontare ogni giorno. E niente, sentiamo, io così comincio ad avere il sentore che il sensei in un qualche modo ascolti le nostre puntate, e perché riesce sempre a intervenire sul pezzo. La parola del giorno. Kyono hitokoto. A Miraiya. Chimu ka. Chimu ka. L'hai segnato nel tuo prontuario per quando andrai a lavorare alle corse giapponesi anche questa? Per quando farò come Alan Marangoni, vincerò la mia prima e unica corsa a Okinawa. E chiamerai l'ammiraglia chiamandola come? Chiyoka. Come? Chiyoka. Circa, quasi. Con la L. Quasi, va bene, direi che abbiamo dato anche oggi, possiamo avviarci alla conclusione, non prima di avervi alla ricordato. Cena anche, magari. Cena, a un certo punto speriamo che qui a Campobasso ci accolgano. Andiamo al nostro campo base. Sì. Dove ceneremo. Ma prima dal campo base lanciamo i social, i nostri canali che ormai conoscete, Twitter, Ciclismo Liquido al Vento, Bidon, Telegram, qualsiasi cosa. No, Telegram non è il nome del nostro social, Telegram, è la piattaforma. C'è un gruppo di Bidon e un gruppo di Alvento, su entrambi la discussione ferve, con moderazione come è giusto che sia, se no le notifiche ti bombardano. Ringraziamo nuovamente i nostri amici di Shimano che ci danno una grossa mano nell'andare avanti in questo Giro d'Italia, oltre che averci messo in contatto con il Sensei, che non è una cosa da poco. Ci salutiamo con un altro ricordo, un ricordo che affidiamo a Marta, e con questo concludiamo la nostra puntata. Sono molto felice di concludere il podcast con un ricordo comunque allegro, che ero una grandissima fan di Gino Meder, e oggi in partenza dai bus c'era una ragazza molto carina con un cartello piccolino scritto a mano, veramente molto dolce, si chiama Roberta, aveva questo cartello che ricordava che 3 anni fa, ora giorno più, giorno, c'era la differenza del giorno di riposo, Gino 13 maggio del 2021 vinceva una tappa in solitaria, Grotte di Frassassi con l'arrivo ad Ascoli Piceno, è stata una vittoria bellissima, e questo cartello diceva appunto che passato del tempo, ma Gino non è mai dimenticato per quella tappa e per molte altre qualità, molte altre bellissime ricordi che ci ha lasciato. Quindi lo salutiamo, salutiamo la sua squadra e Ride for Gino. E ci vediamo, ci sentiamo domani. Ciao a tutti!